brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una delle materie nelle quali i ragazzi hanno maggior difficoltà di studio oggi è la geografia. Sembra paradossale, dice che ci vuole a studiare la geografia, basta imparare a memoria. Beh, eppure, con una rapida collazione tra le mie esperienze familiari e quelle di tanti miei amici e colleghi, mi rendo conto che la grande difficoltà è nello studiare geografia, che erano le materie più semplici, più banali. Ai miei tempi studiare geografia era una cosa come un'altra. Sì, non era proprio questo gran divertimento. Però se studiava era difficile essere rimandati in geografia. Beh, eppure oggi c'è una percentuale altissima di ragazzi che vanno male a geografia. Mi sono lungamente interrogato su questo e mi sono reso conto che in realtà è la materia che richiede maggiormente uno sforzo memorico non giustificato da nulla, perché mi dice mio figlio, come mi dicono tanti altri, cioè, ma perché devo studiare i confini di un territorio, le risorse, quando invece basta che guardo in internet, guardo la mappa di Google, mi faccio una ricerca, cosa mi importa? Tanto quando ci devo andare faccio semplicemente in 448 vedo dove sta. Insomma, c'è una grossa difficoltà ad acquisire in maniera gratuita mnemonicamente alcuni dati. Altra cosa che avrete notato, e questo sarà senz'altro caro alle tante mamme in ascolto del nostro pubblico, oggi non si studiano più le poesie a memoria. Ci sono state lunghe battaglie, lo ricordo perché ho attraversato generazionalmente questo tipo di problematica ideologica sul fatto che imparare a memoria corrispondeva a una concezione nozionistica del sapere, bisognava contaminarsi, bisognava collettivamente interpretare, bisognava vedere, analizzare tutte le forme di controinformazione. Insomma, lentamente, gradualmente, l'imparare le vecchie poesie a memoria come facevamo noi, era una delle attività fondamentali alle scuole elementari, ma anche alle scuole medie, era considerata quasi una sorta di esercizio reazionario. Quindi ci sono ragazzi che oggi fanno il quarto ginnasio e non hanno mai sentito parlare di leopardi, tanto per fare un esempio, ma tanto più non sanno manco una poesia a memoria. Noi ci imparavamo tutti i sepolcri pezzetto per pezzetto, quanti canti la Divina Commedia, quante ricordi, io mi ricordo degli incubi veramente, lunghissime poesie, c'erano alcuni poeti che veramente avevano una così vasta profusione di poesie, una di quelle appunto Leopardi, ma anche Foscolo, anche tanti altri, anche Manzoni, quanti passi come si sposi imparavano a memoria. Era importante, ma forse no, forse fino a un certo punto. Fatto sta che ancora noi ci ricordiamo, certi passaggi per noi sono fondamentali, certe aree della nostra memoria biologica e organica sono state sollecitate in quella direzione. Oggi mi direte, esistono le periferiche inorganiche alla nostra memoria, quindi ognuno di noi può espandere la nostra memoria, può portarsi dietro, come faccio io, la mia chiavettina USB, lo tengo gran parte del mio lavoro. In rete ho tutti gli articoli che ho scritto, tutte le foto che ho mandato, tutti i pensieri che ho fatto, tutti i miei progetti, almeno gli ultimi 5-6 anni. In qualunque posto vada, basta che mi collego e naturalmente posso scaricarmi tutto il contenuto della mia memoria inorganica, della periferica inorganica alla mia memoria organica. Io cosa mi ricordo? Quali sono i miei ricordi? Dove andranno a finire i miei ricordi? Come potrò tenere a mente un giorno che mi trovo in un luogo che non ha connessione, non ha rete elettrica, non ha possibilità di richiamare a memoria tutte le mie periferiche? Come farò io a ricordarmi della mia memoria? Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci? C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. Io non sono diverso. Allora, a che punto ero? 800240024. Cosa fate voi per esercitare la vostra memoria? Voi vi ricordate le cose che vi dovete ricordare? Io sono circondato da persone senza memoria, da persone che ti dicono ciao, come stai? Bene, ci vediamo magari a quest'ora, ci prendiamo qualcosa assieme, oppure ci incontriamo perché dobbiamo parlare, poi non ci vengono perché sono dimenticate, perché sono soffocate da altri mille impegni, da tante cose che era facile tenere a memoria, ma poi naturalmente se non ce lo segniamo da qualche parte, se non abbiamo la suoneria in un telefonino che ci avverte che nella nostra agenda agenda a quel momento c'è un appuntamento, ce ne dimentichiamo. Io mi dimentico i miei appuntamenti dal dentista se non me li metto nella mia memoria del telefonino. Mi chiama l'assistente, mi dice: guardi, ci abbiamo appuntamento, mezz'ora fa, stiamo qui a aspettarla con la dentiera in mano, quando viene? E io mi sono dimenticato completamente. Non mi dimentico le sensazioni, non mi dimentico gli odori, non mi dimentico i torti subiti, non mi dimentico i momenti ineffabili di passione, quelli non me li dimentico mai. Ma le cose spicciole, le cose che bisogna ricordare, i nomi, ho un'impossibilità di ricordare i nomi. I numeri di telefono non ne parliamo, chi mai più si ricorda un numero di telefono? Se mi scancella l'agenda del mio telefonino, io naturalmente non posso più chiamare con nessuno, sono disconnesso. Il pezzo di film che avete sentito è un film non moltissimo conosciuto di Christopher Nolan del 2000, Memento. Memento è la storia di un signore che aveva subito un grave torto in famiglia, una grave violenza da parte di malviventi su sua moglie, ma nella colluttazione, nel tentativo di difendere la moglie, perde la memoria, ha un trauma e perde la memoria. E quindi non riesce a ricordare di tutto questo episodio che un'ultima sequenza, un frame, e quindi tutta la sua fatica sarà nell'andare a recuperare nelle sue sinapsi lesionate questi frammenti di memoria che per lui erano importantissimi, e comincia a coltivare l'ossessione di memorizzare attraverso supporti sintetici come una macchina fotografica Polaroid e i momenti che sta passando, che sa che per il suo problema, per il suo trauma, dimenticherà subito dopo. È come vivere un momento e l'istante dopo sapere che ce lo dimenticheremo. Avere una memoria organica è immediatamente resettabile, e se ci si resetta la memoria non possiamo fare altro che appoggiare, come facciamo tutti noi quando fotografiamo con il telefonino, quando scriviamo un appunto sulla carta igienica e quando cerchiamo in qualche maniera di farci un nodo al fazzoletto, qualcosa di simile, per ricordarci quello che abbiamo vissuto. Ora chi fra voi sarà il prossimo corso? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Ho bisogno di guardare oltre alle dinamiche dominanti. Ve l'ho fatto soltanto assaggiare. Beautiful Mind è un film molto più noto di Ron Howard, dedicato alla vita reale di un matematico, di un premio Nobel, interpretato da Russell Crowe, che questo signore aveva una memoria prodigiosa in quanto era un vero genio matematico, un vero personaggio, però la sua capacità di memorizzare arriva addirittura a fargli immaginare tutta una sua vicenda legata alla guerra fredda, legata allo spionaggio, legata a tante altre vicende di cui non si sa se realmente questa vicenda sia avvenuta. Nella sua memoria avviene una sorta di cortocircuito, la memoria si sovrascrive e si arricchisce di immagini che realmente non corrispondono a un'esperienza concreta. Allora Duca, dica, quale categoria scelto? Ippica. Con particolare riferimento a qualche determinato periodo? No, con riferimento a tutte le corse di cavalli che si sono svolte dall'epoca degli antichi persiani a tutt'oggi. Perbacco, fino ad oggi? Fino ad oggi, pomeriggio alle 5. Allora Duca, dica, montiamo a cavallo... Scusi, credevo che ci fosse un muro dietro. Montiamo a cavallo e galoppiamo verso quei 5 milioni e 120 mila lire che ci auguriamo di poterle far vincere. Beh, speriamo. Signorina Campagnoli, ci porti la busta con le prime 5 domande. Con queste domande speriamo di portarla al primo gettone d'oro. Speriamo. Ecco, signorina. Signori va. Sì, mi spiace, ma il mio posto vicino al notaio. Ma stia qui con noi. Totò lascia raddoppia. Nell'Italia del boom, nell'Italia dell'ottimismo, l'Italia del tutto a disposizione per tutti, di tutti felici alla stessa maniera, anche il concetto di memoria cambia, muta. Il concetto di memoria diventa la glorificazione del nozionismo. I campioni della memoria sono quei maestrini della penna rossa che hanno molto tempo a disposizione e imparano a memoria una serie di nozioni totalmente inutili. Assomiglia al leggendario racconto dei pastori che, avendo tanto tempo, imparano a memoria la Gerusalemme liberata, la Divina Commedia. Gira questa voce, non so se sia vero, esistono in Sardegna dei pastori che sanno a memoria la Divina Commedia o la Gerusalemme liberata. Può essere vero, l'ho sentito dire un'infinità di volte, quindi per me corrisponde ormai alla realtà ciò che è rimasto impresso nella mia memoria. Beh, questi signori fanatici della nozione accumulata, aggregata nelle loro masse cerebrali, erano gli eroi del possibile guadagno immediato, senza nessun altro talento che quello di esercitare una sorta di memoria meccanica, senza nessun approfondimento, senza nessuna elaborazione, senza nessuna sedimentazione. La televisione promette per i talentuosi eruditi, per i talentuosi esperti, virtuosi, la memorizzazione anche sulla storia dei tappi da bottiglia o delle suole sfondate delle scarpe, di avere comunque un premio. 800240024, sentiamo Filippo, buongiorno. Salve. Lei cosa fa con la sua memoria? Vive la carta. Da un po' di tempo uso, come tutti gli altri, un cellulare sul quale indico i miei appuntamenti. Prima, per tantissimi anni, avevo agenda cartacea e anche un libretto dove scrivevo anche le cose che non potevo fare, idee, esperienze. Qualcosa di molto disorganizzato, però andando a rileggerlo si formava nella mia mente una struttura abbastanza consolidata della realtà della mia vita e mi ricordavo cose magari tanti anni fa che potevano essere utili improvvisamente in un certo momento. Adesso non lo faccio più, letteralmente avendo abbandonato l'abitudine della carta e la matita sono arrivato a dipendere da un meccanismo che non va abbastanza bene per scaricare tutte le altre cose che succedono nella vita e che potrebbe essere necessario ricordare anche tra 20 anni. Ma lei come fa, ad esempio, per tutti quei numerelli che ci sono indispensabili? Una delle scene più patetiche che vedo io di solito sono le persone che tengono ferma una lunga fila davanti agli sportelli bancomat che scartabellano nelle mutande alla ricerca del bigliettino dove sta scritta la password. Sono su numarels o femmine di Umarell, ma la stessa cosa avviene con i codici PIN, con le password del computer. Ecco, lei con questi numerelli come si comporta? Me la cavo ancora abbastanza bene perché comunque non gira con il foglietto nel portafoglio accanto alla carta di credito. Assolutamente. Quando devo usare quelle cose di solito sono di fronte alla tecnologia, per cui ho un maledettissimo file gigante con criptato con dentro 200-300 password che poi magari sono le 3 o 4 che girano, però per i 200-300 posti che sono stati toccati nella mia vita. E fin qui me la cavo bene, invece il drammatico è riuscire a ricordarmi tutte le cose che potevano essere interessanti che ho lasciato intoccate da, mettiamo, 5 anni. Una volta funzionava benissimo, riuscivo a fare un repêchage di idee, e anzi addirittura queste idee non è che dovevo andare a ripescare la carta, avendole sulla carta ogni tanto lo riguardavo e poi me le ricordavo. Adesso sto perdendo, è anche una questione di età ovviamente, molto di quella consapevolezza di centinaia di cose diverse che potevo, sulle quali potevo agire. Facendo un lavoro indipendente in cui dovevo essere io a proporre idee di operazioni, eccetera, avere un sacco di cose a disposizione nella mia mente è fondamentale. Bene, passiamo a Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, la mia, come dire, il mio motivo per cui telefono è perché io mi ritrovo a 48 anni ad avere forse il triplo della memoria che avevo da quando andavo a scuola, di quando ero ragazzino. Sono stato un emerito somarino a scuola, il motivo anche perché non mi piaceva, però mi ritrovo adesso ad avere una memoria soprattutto fotografica nelle cose, impressionanti. Posso vedere una persona una volta, rivederla dopo anni, ricordarmi dove l'ho vista, come si chiama e cosa abbiamo fatto insieme in quel momento. In questo è il video, guardi, io ho il problema esattamente opposto. Posso parlare? Parlo per mezz'ora con una persona fingendo di riconoscerla e restando in questo dubbio poi per il resto della mia vita. Con mia moglie vedo una persona che lei so che conosce, gli dico guarda che c'è una persona che ti conosce, che ti sta salutando. Lei gli si trova di fronte, non ricorda neanche chi è. E anche in matematica, che a scuola ero veramente un disastro a fare i conti, le operazioni, le somme, le moltiplicazioni, le divisioni, l'IVA addirittura, faccio tutto a mente. Addirittura io il mio hobby mentre lavoro, io faccio il macellaio, quando preparo la roba faccio i conti a mente, 9 per 8 diviso 7 per 6, 52 diviso 4, sempre così tutto il giorno, quasi tutto il giorno. Beh, ma gli altri si fidano? Sì, no, ma io faccio il macellaio dipendente, quando lavoro per le mie cose. Ah, per le sue, pensavo il conto del macellaio fatto. È un mio hobby che io esercito nella mia mente così facendo i conti. Difatti il mio bambino grandino che fa la terza elementare, quando facciamo i compiti di matematica, mi chiede papà, ho fatto bene? Sì, ho fatto bene. Non devo, ma lei vede i numeri? Cioè ci sono persone che in realtà i numeri li interpretano, li vedono, noi riusciamo a vedere al massimo, mi sembra, 6, 7 cose in fila, capiamo che sono 7. Sono persone che ne vedono 1000 e ne contano 1000. Guardi, io sinceramente non riesco a capire come faccio, io so solo che ho un metodo mio personale per fare un conto, per dire, se devo fare 9 per 7 diviso 6, faccio 9 per 10, poi devo togliere la differenza, che cioè, tutta una cosa mia che adesso spiegarle non riesco, però nella mia mente riesco a elaborare e il risultato è giusto alla fine. C'era un famoso caso del signor Luria, Alexander Luria, che è stato molto studiato, che aveva una sorta di sinestesia, sentiva i numeri, era capace di sentire, vedere, immaginare, le sequenze numeriche si animavano come se fossero degli universi percepibili. Le ripeto, io se vedo 7 fiammiferi in fila, vedo che sono 7, sono già 8, devo contarli con il dito. Persone di questo genere sentono anche un'intera scatola di fiammiferi sciorinata, tanto per farle capire, riescono a vedere quanti sono. Ma su questo, probabilmente questa mattina, c'è chi ne sa più di me, io vado soltanto per istinto e per cose imparaticce via via. Gianni Golfera, buongiorno. Buongiorno a voi. Gianni Golfera di mestiere fa lo mnemonista, è autore della memoria emotiva, edizione Spelling e Kupfer. Pare che lei, vedo che ha una sua notevole notorietà, abbia messo a punto un metodo che le permette di tenere a memoria un'infinità di libri. Io mi hanno dato una lista di libri che lei sa a memoria, se qualcuno poi volesse verificare: Le sentenze di Porfirio, Giamblico, La vita pitagorica, Cornelio Agrippa, Le arti magiche, Pico della Mirandola, Dignità dell'uomo, Frammenti orfici, Plutarco, Marsilio Ficino, Ermete e Trismegistro, tutti anche testi che hanno a che fare comunque con la magia, il neoplatonismo, una certa filosofia legata alla memoria come qualcosa che mette in contatto l'essere umano misero e desolato con l'assoluto. Sì, la grande passione per la filosofia neoplatonica è uno degli elementi che ha caratterizzato la mia vita, la mia ricerca in direzione della memoria. Io ho ripreso il sistema usato dagli antichi, dai romani prima, nel Rinascimento poi, per memorizzare l'antica. Ma è quello dei teatri della memoria? Esattamente, esattamente. Cioè lei allucina un luogo, come facevano appunto, con tanti cassetti, tante scatole, tante stanze, a ogni cassetto, a ogni scatola, a ogni stanza attribuisce comunque una nozione e poi riesce a rivedere e ricostruire tutto. Esattamente, principalmente penso a spazi, luoghi conosciuti, e sfrutto la memoria visiva, la memoria spazio-temporale, per ricordare anche i concetti astratti. Ma mi può fare qualche esempio? Perché è affascinante a sentirlo dire, però bisogna capire come si opera in questa direzione. Certo, naturalmente. Allora, poniamo il caso, ad esempio, di volere ricordare un discorso che deve trattare diversi argomenti. Il primo argomento è la memoria, il secondo argomento è la storia dell'arte della memoria, il terzo argomento è la scienza, il quarto argomento è l'utilità pratica. Ma lei si ricorda cosa ho detto io all'inizio della trasmissione? Mi ricordo sì i contenuti, non ho imparato alla lettera quello che ha detto, perché non era questo. Non l'ha applicato, diciamo, al suo teatro della memoria. Sì, bisogna applicare volontariamente quando serve. Cioè, come dire, caricare delle informazioni in un file, ecco. Esatto. Facciamo l'esempio di prima, quello appunto del discorso. Allora immagino l'ingresso di casa mia, nell'ingresso immagino un grande cervello per ricordare in primo luogo la memoria, poi immagino nella seconda stanza Cicerone, che mi ricorda nell'antichità come si usava l'arte della memoria, poi la scienza, uno scienziato in cucina, e infine la pratica delle persone che lavorano nello studio. Ma ognuno può collocare i personaggi che vuole a piacimento, o è importante legarlo a personaggi che hanno un forte valore storico e emotivo? Devono essere dei personaggi che abbiano un valore emotivo per la persona che li colloca, ed è importante che li collocano nelle stanze di casa propria. In questo senso noi diremo. No, perché io se faccio l'elenco delle persone che vorrei vedere nelle stanze di casa mia, mi portano più al desiderio di dimenticare piuttosto che di memorizzare. Temo che ci sia questo il rischio, tuttavia serve ricordare sempre attraverso esperienze positive, quindi andranno sostituiti con altri più simpatici. Ecco, io farei così. Allora, io adesso devo dare la linea alle informazioni per la borsa. Vogliamo lanciare ai nostri ascoltatori una sorta di possibilità di fare un test, non so, di ricordare una poesia, di ricordare qualcosa. Mi piacerebbe che telefonando all'800240024 mi deste anche voi prova di quello che avete tenuto a memoria, che sia facilmente e oggettivamente percepibile, quindi potrebbe essere un brano letto o studiato a scuola, qualcosa che voi ricordate fortemente. Vi lancio questa sfida assieme appunto a Gianni Golfera, che della memoria ha fatto la sua grande passione. Questa mattina stiamo cercando cercando di parlare di recupero della memoria, di esercizio della memoria, di scoperta delle fantastiche facoltà che ha la nostra memoria. Io vi cito spessissimo il racconto di Oliver Sacks nel libro L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. È la storia della signora irlandese che va dallo psichiatra dicendo: ho una musica, lo dico sempre, lo ripeto ancora una volta, che mi dà molto fastidio, delle ballate irlandesi che mi ricordo che sentivo anche da piccola, le sento continuamente come se avessi una radio accesa. Fa una rapida osservazione, fa un'analisi, il dottor Sacks poi si rende conto che in realtà da nessuna parte viene messa questa musica se non dalla memoria profonda di questa signora. È come se avesse memorizzato, registrato tutte le canzoni della sua vita, come se avessimo noi un luogo recondito nella nostra memoria organica dove si registra tutto quello che vediamo, che ascoltiamo. E poi per una sorta di cortocircuito, per un'interferenza, questo meccanismo va in play e le manda in ascolto tutte le canzoni della sua vita, aveva tutta la musica che aveva ascoltato, se la riascoltava giorno per giorno. Gianni Golfera, può avvenire secondo lei qualcosa del genere? Ricordo che è un saggista mnemonista, autore della Memoria emotiva, edizione Spelling e Kupfer, un uomo che impara a memoria quello che vuole e sa a memoria un'infinità di libri. Eccoci, sicuramente potrebbe venire come una sorta di perdita di controllo dei propri ricordi che riemergono. Ci capita spesso quando ad esempio orecchiamo una canzone particolarmente orecchiabile, non riusciamo a toglierla dalla testa, ma penso che a tutti sia capitato almeno una volta una cosa di questo genere. Io ho una memoria olfattiva, mi ricorda profumi che improvvisamente mi riportano a momenti lontanissimi anche della mia vita. Vediamo però se riusciamo in qualche maniera a proporre praticamente ai nostri ascoltatori un esercizio. Esiste un rapido esercizio esemplificativo che possiamo proporre alla radio e vedere quanto nell'applicazione possa dare dei risultati, signor Golfera? Naturalmente, possiamo citare una poesia, chiedere a chi ci ascolta di ricordarla, poi spiegare come fare e vedere subito il risultato immediato del metodo Golfera, il mio sistema, appunto. La poesia si intitola Dove sei? Ora ve la cito, è questa la poesia. Di chi è? È di Stefano Carmagnola, che è un pittore espressionista, artista, è stato anche mio caro amico romagnolo, ora purtroppo non c'è più. E appunto, dove sei? Tra l'erba dei prati, tra le onde del mare, tra le vie di una città mai più visitata? Dove sei? Dietro una vecchia foto, sotto la luna, al di là del mare? Dove sei? Tra il vento di un marzo lontano, tra i ricordi di un diario abbandonato, tra le mille cose nascoste. Ecco, questa è la poesia. Io mi ricordo soltanto il titolo, dico sinceramente. Il dove sei. Ok, allora adesso suggerisco un sistema per imparare questa poesia e vediamo poi di ricostruirla meglio. Dunque, immaginate davanti a voi una sorta di serie di figure, di immagini all'interno della vostra stanza. Il primo verso è dove sei tra l'erba dei prati. Il concetto chiave è prati, raffiguriamo prati, quindi basta immaginare del prato davanti a noi, però siccome è plurale prati, ci sono diversi tipi di erba che ci ricordano prati. Tra le onde del mare lo ricordiamo come un vecchio acquario con uno squaletto che nuota all'interno, un acquario di acqua salata di fianco ai prati. Tra le vie di una città mai più visitata ci fa ricordare che in mezzo all'acquario, dentro l'acquario, c'è un'antica città, una città che non visitiamo da tanto tempo. Così, guardando davanti a noi e vedendo i prati, il mare e la città mai più visitata, diremo dove sei, tra l'erba dei prati, tra le onde del mare, tra le vie di una città mai più visitata. Il testo continua con dove sei dietro una vecchia foto sotto la luna al di là del mare. Immaginiamo allora una vecchia foto in bianco e nero sopra la città mai più visitata che rappresenti la luna, quindi dietro una vecchia foto e sotto la luna. Però ci vuole un sacco di tempo a disposizione, Gianni Golfera, perché per ricordare una poesia devo fare tutti questi meccanismi, poi come fa a venirmi distinto per ogni nozione che debba memorizzare tutta questa fantastica rievocazione di paesaggi, di elementi? È in realtà una proporzione di 1 a 5, nel senso che imparando come fare si riesce a ricordare in un quinto del tempo la poesia. Questo perché siamo noi ad aver creato questi paesaggi, queste immagini, riprendendoli dalla nostra memoria a lungo termine. Dunque ci verrà distinto la rievocazione. Questo implica che se io ho visualizzato l'acquario marino, dirò il mare anziché acquario. Qua devo fare, facciamo soltanto sui primi due versi, già mi basterebbe a me. Se qualche ascoltatore può chiamare all'800240024, lei ripeta il metodo velocemente, soltanto i primi due versi, se no dopo diventa un lavoro che non abbiamo il tempo per svolgere. Naturalmente, sono tre, allora... Ah. Il primo passaggio abbiamo detto: dove sei? Tra l'erba dei prati, e immaginiamo i prati davanti a noi. Tra le onde del mare, immaginiamo un acquario marino. Tra le ville della città mai più visitata, immaginiamo una città mai più visitata che esce dall'acquario marino. Poi dove sei? Dietro una vecchia foto, una foto in bianco e nero, sotto la luna, quindi la foto rappresenta una luna in bianco e nero, al di là del mare, cioè al di là della foto c'è un vecchio marinaio. Eccoci arrivati. Aspettiamo la risposta dell'ascoltatore, intanto sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Mi pare che il sistema più semplice che viene anche proposto è il sistema associativo. Quindi cercare, che è quello che sta dicendo Golfera, è lo stesso? Sì, cercando di associare quella necessità di memoria ad un certo sistema associativo. Io ormai ho qualche annetto, ma lo usavo già quando al liceo. Per cui le gerarchie angeliche dantesche io le ricordavo tutte esattamente, perché ricordavo quello che mi ero costruito. Anarpripo, Vido Trochese, angeli, arcangeli, principati, potestà, virtù, dominazioni, troni, cherubini e serafini. Sì. Anarpripo, Vido Trochese mi ero costruito, che mi era più facile per ricordare tutta questa categoria di nomi. Come pure le muse, Cleuta, Mete, Erpo, Urca, è una cosa che... Cioè, le sviluppi, perché sennò pensano di aver sbagliato emittente radiofonica, di aver qualche radio di qualche paese sconosciuto. Le muse, in effetti, attraverso il suo acronimo, cosa avrebbe fatto? Cleuta, Mete, Erpo, Urca, Clio, Euterpe, Talia, Melpemone, Tersicore, Erato, Polimnia, Urania e Calliope. Questo al di là, diciamo, del mondo classico, l'ha mai applicato questo metodo? Sì, ma per ricordare tutti gli aiuti del mio reparto... Lei è un medico? Sono un medico, sono stato primario, va bene, e quindi per ricordare tutti gli aiuti del mio reparto mi sono costruito una di queste frasi. Ma il sistema solare... È semplice ricordare Mevete, Maggiosa, Urne, Blu? No, per me è impossibile. Guardi, non ricordo nulla di tutto quello che è stato detto finora, ma è un mio problema patologico, evidentemente. No, non faccio testo. Perché questo a volte anche associare visivamente quella certa necessità di memoria, associarla visivamente a un oggetto o un altro nesso nostro logico. Lo sa, dottore, mi viene in mente una cosa in questo momento e non so con quanti dei miei ascoltatori divida questa sensazione. In realtà sto pensando adesso che a me di ricordare non me ne freghi proprio nulla. Il vero problema è che in realtà c'è un singolare e ammirevole accanimento nelle persone che ascolto a creare dei sistemi, delle gabbie per mantenere vivi i propri ricordi, ma probabilmente può esistere un'altra fetta di umanità per cui la vera vertigine è l'azzeramento totale di ogni ricordo e la riscrittura della propria memoria. Lo troverebbe patologico questo? Ma guardi che non dare importanza a certe cose in effetti porta a non ricordare. Poi però ci può essere una necessità, ecco, la lontana necessità scolastica, dovevo ricordare quelle cose, le dovevo sapere. E quindi diventa... Beh, era un tipo di, diciamo, necessità diversa. A scuola, se non si ricordava a memoria, andava male l'interrogazione, la vita era impossibile. Ma nella vita professionale, adulta, i ricordi legati al mondo professionale abbiamo un infinito di supporti, di cui vedo tutti i limiti. I ricordi legati alla propria vita personale, ma sai, io non è che poi senta tutta questa necessità di tenerli in memoria, ma sarà un problema mio. 800240024, esiste un'altra fetta di umanità di cui mi faccio modesto portavoce, in realtà vuole dimenticare, vuole azzerare, vuole resettare, vuole lasciarsi libere le sinapsi per percepire la quotidianità, per percepire il presente. Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è un piacere sentirla. Niente, io volevo portarle una mia esperienza. 4 o 5 anni fa parlavo con un collega, faccio l'autotrasportatore, e mi disse, guarda, io fino a un paio di mesi prima che appannassimo questo discorso non ricordavo quello che facevo prima, quello che facevo il giorno prima, due giorni prima, e mi sono messo sul letto, mi diceva sempre sto collega, a cercare di ricordare quello che avevo fatto il giorno prima, la settimana prima, ed era riuscito a, come si dice, a ricordare fino a 8 giorni, 9 giorni prima tutto con precisione quello che aveva fatto. Allora ho detto, beh, provo anch'io. E in questi 4 anni, le dico, è molto spossante tornare indietro giorno per giorno per giorno, ci vogliono ore e ore. Ma chi glielo fa fare di mangiarsi il tempo per ricordare il tempo perduto? Ma alla sera no, tante volte mi capita di dire, è un po', come si dice, farsi un viaggio mentale, capito quello che voglio dire? Cioè, sì, sì, figuri, capisco perfettamente. Ci sono anche tanti, tanti supporti e tante sostanze che aiutano in questa attività. No, beh, io purtroppo di quelle cose non le faccio una, però le dico la verità. Lei provi, alla sera si mette solo a pensare, a cercare di ricordare quello che ha fatto 5 giorni fa. No, no, io me lo voglio dimenticare proprio, guarda. Però ognuno, mica perché rinnego il mio passato, perché dico, poi questi sono meccanismi, mi voglio confrontare con le persone che mi ascoltano, i ricordi riaffiorano da soli. Quelli piacevoli e quelli dolorosi, e quelli che sono lancinanti, quelli che sono delle inespresse condizioni di disagio, o quelli che sono delle inarrivabili e inimitabili momenti di estasi, vengono fuori da soli. Gli altri non meritano di essere ricordati, secondo me. Ma io rispetto la sua opinione, però molte volte è bello anche ricordare anche quello che si è fatto, dove sei andato a bere un caffè, ricordare la persona che sì, ma secondo me, guardi, ripeto, poi adesso do voce a tutti, l'ultima volta che dirò il mio parere, i ricordi si classificano secondo una gerarchia di merito, quelli che vengono fuori sono degni di essere ricordati, quelli che non ci ricordiamo era giusto che morissero e perissero nell'abisso del nostro oblio. Massimo, Massimo c'è? No, allora Mario ancora, Mario. Fino all'università aveva una memoria spaventosa, ora non ricorda più nulla. Sì, sono io in linea? Certo. Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Esattamente, come ha detto lei poco fa... Io ma un po' passando con gli anni un po' ci si ricoglionisce, questo è normale però, lo sa. Sì, infatti non ho 37 anni, quindi spero di non essere più... Quanti anni ha lei? Quasi 37. Vabbè, ancora un po' presto, sì, in effetti è un po' presto. È un po' presto, quindi io vivo una grande ansia, direi, perché faccio un lavoro che mi porta a dover ricordare diverse statistiche, vendite, risultati, e ho il mio capo che è praticamente una sorta di computer, di elaboratore elettronico ambulante. E glielo rinfaccia continuamente che non si ricorda? No, perché io camuffo, ma non so fino a che punto, perché poi inevitabilmente in alcune situazioni ti trovi in imbarazzo totale, ma quello che mi preoccupa e mi dà veramente fastidio è l'ansia che scatta in me. È un'ansia paralizzante, perché ancora prima di cominciare una riunione magari dico, oddio, tutti quei dati, li ricorderò tutti quei dati. Dicevo, quando ero piccolo avevo una memoria spaventosa, per me lo trovavo noiosissimo guardare un film la seconda volta, anche a distanza di tanti anni, perché ricordavo alla perfezione il film. E lei prima ha citato Memento, io Memento l'ho dovuto vedere 3 volte per capirlo, difatti non sono sicuro se, come ha detto lei, che siano stati degli estranei a fare del male alla moglie del protagonista, mi sembrava fosse lui stesso. Penso, ma nemmeno me lo ricordo, per dire, evidentemente la sovrapposizione dei ricordi crea questi corticircuiti, certo. Sì, però quello che vorrei sapere, magari Colfera mi può aiutare, se esistono delle scuole, dei corsi, poi le volevo dire... Colfera fa il corso, il metodo Colfera, lui stesso lo insegna, vero Gianni Colfera? Naturalmente, c'è l'omonimo sito metodogolfera.com che parla proprio di questo, del mio sistema per ricordare. Ma quei sistemi che andavano molto agli anni 70, che si compravano i sensori da attaccare al cervello per imparare le lingue la notte, ma funzionavano? Purtroppo no, non abbiamo avuto nessuna conferma scientifica di questo. Andavano molto di moda, si ricorda? Uno metteva la notte e imparava le lingue con le ventosine attaccate al cervello, alla fronte. Certo, mi ricordo perfettamente. Era come vendere l'enciclopedia, era una cosa del genere. Invece il suo metodo, qual è la tipologia del suo paziente, cliente tipo? Chi è che ha più necessità di ricordarsi cose a memoria, che si applica in questa maniera che io trovo molto divertente, fantasiosa, romanzesca, ma poco vicina alla mia sensibilità, perché sono frenetico e sono nevrotico? Diciamo che il cliente tipo è quello che vuole in poco tempo riuscire a studiare, ad esempio lo studente lavoratore o il professionista che vuole fare un concorso pubblico ma non studia da tanti anni. E, peraltro volevo citare anche una risorsa gratuita, che sono 101 consigli e strategie per migliorare la memoria, presenti sempre nel sito metodogolfera.com, sulla newsletter, dove ci sono consigli gratis per ricordare i nomi della gente, per imparare una nuova lingua o per ricordare te. Magari me li stamperò, me li porterò dietro, così me li ricordo. Sentiamo Rossella. Rossella. Salve, buongiorno. Io spero di non dire una cosa troppo scontata, però credo che il problema della memoria sia legato al problema dell'attenzione. Al giorno d'oggi forse facciamo una vita un po' poco attenta ai particolari, che ci consente poco poi di poter ricordare particolari, eventi, eccetera, eccetera. Diciamo che siamo ipersaturi di informazioni e di stimoli, e quindi probabilmente sono molto più le cose da dover ricordare che ai tempi di Pico della Mirandola, che poteva immaginarsi i suoi immaginifici teatri della memoria. Siamo arrivati alla conclusione, la sigla ci ricorda, visto che ci eravamo dimenticati, che il nostro tempo è concluso. Ringrazio Fabrizio Intonti e ringrazio anche Alessandro Chiappini, di cui mi stavo dimenticando il nome, e l'appuntamento per domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.